Con Bonifacio Angius, regista del film Ovunque Proteggimi, in uscita in sala giovedì 29 novembre. Bonifacio, ben trovato. Grazie, grazie. È sempre un piacere avere a che fare con voi di Radio Onda Rossa. Onore. Allora, caro, come lo presenteresti questo film? Allora, questo film è un film dallo spirito volutamente e inconsapevolmente, per quanto riguarda i personaggi, dallo spirito anarchico. Ma è uno spirito anarchico obbligato perché i personaggi del mio film si scontrano con un mondo che non gli appartiene e che vorrebbero o prendere a pugni in faccia o scapparne. È un film che parla di un incontro tra due solitudini, Alessandro e Francesca. Alessandro, un musicista di musica folk sassarese, che poi sarebbe musica sudamericana mischiata a musica napoletana o flamenca andalusa, con testi tradotti in lingua sassarese, Sì. e una donna, Francesca, dai modi spontanei di una bambina, un personaggio che sembra uscito quasi da una canzone di Fabrizio De André, a cui è stato portato via un figlio perché è stata messa in dubbio con tanta energia la sua capacità genitoriale. Ok. È un film che parla d'amore, ma non d'amore di coppia alla Via col Vento. È un film che parla d'amore su tanti livelli, quindi amore come ancora di salvezza, amore materno, amore tra figlio e madre. Cioè, potrei stare qui a parlare per un'ora e mezza, non lo so, fammi qualche domanda tu. A questo punto ti chiedo come era nato il progetto. Allora, il progetto è nato semplicemente, abbiamo iniziato da dove avevamo finito, cioè da Perfidia, quindi tenendo dei toni notturni e cupi. La caratteristica del mio film precedente, del protagonista, del personaggio del mio film precedente era la passività e la remissività. Quindi io non volevo fare lo stesso film, allora ho deciso di fare un film con dei personaggi dai caratteri diametralmente opposti, cioè completamente impulsivi. Io non faccio film a tema, perché credo che i temi ho finito di farli al liceo. Io faccio film su esseri umani, su personaggi che si muovono nel mondo e quindi sfiorano anche temi. Quindi tocchiamo diversi tasti dolenti del mondo contemporaneo. Quindi trattiamo, diciamo, il trattamento sanitario obbligatorio, che spesso viene usato come organo di repressione sociale, però io non vorrei sembrare troppo sovversivo, insomma, io non sono contro la psichiatria o contro i servizi sociali, però a volte bisogna essere anche critici e sottolinearne le disfunzioni. Sì. In questi anni si è parlato tanto di legalità, forse troppo. Proprio in questi giorni questo tema caldissimo che dice che non per forza tutto quello che è legale deve essere giusto, quindi questo film parla anche di questo, ma soprattutto parla di personaggi, parla di esseri umani e ne mostra i lati buoni e i lati cattivi al tempo stesso, un po' come in tutti noi. E quindi credo che lo spettatore si possa riconoscere facilmente in questi personaggi, seppur estremizzati. È un film figlio di un cinema un tempo popolare, ora quasi dimenticato, perché ora quasi si vuole spingere quasi a dire che il pubblico non debba per forza capire niente. In realtà il pubblico è chiunque. Il pubblico è un giornalista, un cronista radiofonico come te, un salumiere, un avvocato, un gommista, un operaio. Questo è il pubblico. Poi esistono avvocati, gommisti o salumieri più o meno sensibili, però è sbagliato di per sé, a prescindere, dire che il pubblico non capisce niente. Io voglio che il mio cinema sia popolare e voglio e spero che il cinema d'autore torni a essere popolare. Bonifacio, in quante sale uscirà? Allora, abbiamo una strategia distributiva molto interessante che si muoverà un po' a macchia di leopardo. Adesso partirà con allora, due sale a Roma, che sono il Farnese e l'Aquila, poi a Milano, Beltrade, Genova, Cinema Cappuccini, Sassari, Cagliari, Iglesias, Ancona, Bologna dal 30 novembre e dal 29 novembre. L'uscita in sala è dal 29 novembre. Poi dalla prossima settimana ci aggiungeranno altre sale e sarà un'espansione più a macchia di leopardo alla fine. Coprire circa, non ti voglio dire i numeri perché poi magari mi porto via da solo, però a tante città, però questo è un metodo distributivo nuovo fatto da Ascent Film in collaborazione con Altri Sguardi e credo che sia il metodo in questo momento più efficace, anche perché vedendo i risultati dei film autore che escono magari in tante copie in contemporanea non sono tanto edificanti, quindi abbiamo preferito un'uscita diversa, insomma. A questo proposito, per saperne di più, ci lasci i riferimenti web per le informazioni? Allora, abbiamo la pagina Facebook del film Ovunque Proteggimi, dove potete tenervi informati. Poi c'è la mia pagina Facebook dove io scrivo in continuazione appunto per utilizzare il social network, non per fare giudice di massa, ma giudice sommario, ma semplicemente per aiutare il mio lavoro e il mio film. E poi ci siete voi, cioè c'è la stampa che aiuterà a tenere il pubblico aggiornato sulle varie uscite. A Roma siamo 29. Al Cinema Farnese alle 21:30 una presentazione speciale con i maestri Massimo Gaudioso e Daniele Cipri. Perfetto. Ricordiamo l'uscita in sala del film Ovunque Proteggimi da giovedì 29 novembre al cinema. Un saluto e un ringraziamento al regista Bonifacio Angius. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie Ciao. il lupo, grazie tante, a presto.